manciate di neve sparse sulle notte del deserto. Qualcuno m'ha invocata a danzare la celebrazione della morte in Dia. E la nostra musica nasce dalle sorgenti del vuoto sonico. Sogni, sogni, galleggianti ovunque. Siamo bambini danzanti sul pianeta ardente, nella gioia della nostra piena inconsapevolezza.